Allora, innanzitutto buon Natale, sennò poi nel fare la meditazione mi posso dimenticare di questo augurio che poi è la cosa più importante, più gradita, un augurio che ovviamente in questo momento di preghiera previo alla messa diventa preghiera, no? La preghiera per ciascuno di voi, è una preghiera di ciascuno di voi per tutti e che si amplia pensando al mondo intero. E io poco prima, ecco no, qualche ora fa, nel pensare a questa meditazione, sono stato raggiunto dal messaggio che il padre ha pubblicato, e il nostro prelato è un piccolo video che ha pubblicato penso da poco, comunque io l'ho saputo insomma, poche ore fa, ed è un messaggio breve, molto denso, molto bello, che ci può dare, a mio parere, così la scansione dei temi di questa meditazione. E come è proprio del padre, riesce a dire tante cose molto dense in pochissimo tempo, no? Il contrario di me. Dico un sacco di parole, poi alla fine. Comunque, infatti adesso il primo pensiero che mi viene vedendo queste poche parole, che ci mette 3 minuti, è dire: ma come si fa a fare una meditazione su tutte queste cose, no? Abbiamo tutto il tempo di Natale per meditarle. Comunque, il padre comincia così: il vedere il Signore fattosi bambino, essendo veramente un bambino, ci parla della semplicità di Dio che diventa un bambino per noi. Anche guardando un bambino appena nato a Betlemme, conosciamo il modo di essere di Dio. È molto bello, e quindi intanto, come insomma sappiamo da una lunga tradizione che in fondo è che ampia nella Chiesa e che ha avuto anche nel nostro santo fondatore, in San Cosimaria, un maestro, direi, no? Di questa capacità di guardare Dio, insomma, di contemplare la vita di Gesù. E in modo particolare forse proprio il presepe, cioè il mistero del Natale, no? Che lo commuoveva e lo portava a dire cose molto tenere sull'amore di Dio e anche ci incoraggiava appunto a farci bambini nel contemplare il bambino Gesù, nel vedere il Signore fattosi bambino, veramente un bambino. Ecco, ci parla della semplicità di Dio. E è bello questo vedere Dio, no? In questo bambino, lo sappiamo, però possiamo farlo ancora in questo Natale. E perché questo bambino appena nato ci parla della semplicità di Dio? Perché crediamo che è Dio che si fa piccolo, che si fa uno di noi, che si fa un bambino che ha bisogno di ogni cosa. Ci ricordiamo che Gesù ci ha detto, e lo abbiamo anche ricordato durante l'Avvento, che dobbiamo farci come bambini, no? Per entrare nel regno. E allora, guardando questo bambino appena nato, ci immaginiamo di essere così, ecco, insieme ai pastori o insieme a qualche altra persona che sarà stata lì o che è arrivata a dare una mano, o comunque mettendoci così accanto a San Giuseppe e a guardare Maria e il bambino appena nato, noi desideriamo, Gesù, specchiarci in te, no? Ti guardiamo per desiderare di essere come te, no? E glielo diciamo anche, no? Voglio essere come te, aiutami a essere come te, no? E posso dire anche che quando adesso fra poco nella messa della notte, no? Nella messa della notte noi leggeremo il racconto del Vangelo. Il racconto del Vangelo è un esempio di semplicità, no? E pensiamo che sia legato a un racconto di Maria, no? Diede alla luce mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Punto. Finito qua. Tutto il mistero della nascita è in pochissime parole, in pochissime righe. Tutti i Vangeli sono spesso così, no? In qualche caso danno qualche elemento in più, ma in questo caso sono proprio di una grandissima semplicità. E forse Maria anche in qualche modo nasconde attraverso queste parole la grandezza di questo mistero. In fondo anche per quel lievissimo accenno al fatto che non c'era per loro posto nell'albergo, si intravede qualche difficoltà che è facile comprendere perché erano in viaggio, perché erano forestieri, anche se Giuseppe è originario di Betlemme, quindi chissà, forse anche qualche suo antico parente non li ha trattati tanto bene, non lo sappiamo, ci sono tante storie un po' inventate su queste cose e tutte possono essere legittime per aiutarci ad entrare dentro nella storia, no? Nella storia del Vangelo, ma il Vangelo fa un accenno lievissimo a questo problema. Quando abbiamo fatto recentemente, qualche settimana fa, un pellegrinaggio in Terra Santa, una delle guide, quando eravamo in realtà a Nazareth, in questo caso, ci diceva una delle spiegazioni possibili di questo brano, facendoci vedere le case di Nazareth, un posto povero, che le case abitualmente avevano con una grande stanza dove dormivano tutti e poi dietro una stanza per gli animali, no? Quindi forse non hanno trovato posto nella prima stanza e invece sì nella seconda, non lo sappiamo. In ogni caso, c'è un accenno ad un certo disagio, sicuramente se ci mettiamo nei panni di Maria e anche di Giuseppe, non solo come chiunque mette al mondo un figlio che è figlio proprio, ma per loro, per Maria che sa che questo figlio è figlio di Dio e Giuseppe anche lo sa, per fede, no? Allora avranno desiderato di dare a questo bambino un luogo adeguato e invece tutti questi programmi sono saltati per aria con il censimento e poi con chissà quali altre contrarietà. Eppure tutto questo è superato dalla semplicità della nascita del figlio di Dio. Ci facciamo l'immaginazione che questo bambino che nasce è così forte la gioia della sua nascita, la forza del suo amore e anche la forza della sua semplicità, che il loro cuore è rapito, conquistato e qualunque problematica, qualunque ansietà, qualunque angoscia viene, come dire, in quel momento, contemplando il bambino, completamente spazzata via. Poi, quindi, semplicità, un tema della lettera di questo piccolo video del padre. Poi lui si chiede qual è il modo di essere di Dio e la prima cosa che gli viene in mente dopo aver detto che è semplice, Dio è in tutto semplice, no? Dice proprio anche un antico concilio della Chiesa. Comunque, Dio è amore, questa è invece, è proprio la Sacra Scrittura, no? È la rivelazione esplicita, San Giovanni, no? Dio è amore. Il Padre dice Dio è amore per noi, perciò la fede nel Natale è anche fede nell'amore di Dio per noi. Fede nell'amore. Perché certo l'amore di Dio L'amore di una persona che ci sta accanto, si può anche vedere, scusate, l'amore, ecco, l'amore lo si può vedere e quindi non abbiamo bisogno di fede, anche se è sempre un po' di fede, dobbiamo credere, no? All'amore anche di coloro che ci stanno vicini e che ci vogliono bene. Credere che sia autentico, credere che sia sincero, credere che sia profondo, credere che sia un amore per sempre, no? Allora, però nel caso di Dio che non si vede, questa fede deve essere più grande. È vero, direte voi, che io l'amore di Dio per me lo noto dall'amore degli altri per me. E quindi questo è proprio così. È proprio quello che Dio vuole. E mi aiuta nella fede, nell'amore di Dio. Dico, credo, Signore, che tu mi ami perché vedo tante persone che mi amano. E che dimostrano con il loro amore per me. Che tu esisti, che tu ci sei e che tu sei amore. Il padre dice però, ed è proprio vero, no? Che la fede nel Natale è anche fede nell'amore di Dio per noi. Credo, Signore, che tu hai deciso di diventare uno di noi, di incarnarti, perché ci ami. Credo che tu, Gesù, hai voluto essere uno come noi per amore, no? Perché da cosa vediamo amore? In Betlemme e sono sicuro che ciascuno di voi potrebbe dire molte cose su questo argomento, potrebbe dire molte cose che io non ho pensato e arricchire questa meditazione, sono sicuro di questo, no? Però noi possiamo oggi e anche nei prossimi giorni quando ci avviciniamo al presepe o al Gesù bambino che c'è qua in oratorio che noi adoriamo o a qualunque altra immagine, ne abbiamo tante, anche tanti auguri che ci arrivano e noi possiamo chiederci in che cosa vedo a Betlemme nella grotta dove sei nato che tu sei amore, no? E penso che appunto, il fatto che tu ti sia fatto bambino significa il tuo amore, il fatto che tu abbia voluto essere come noi, significa, cioè, se Dio che è il nostro creatore si fa uno di noi, significa io, creature mie, uomini e donne, vi amo così come siete, tanto che voglio essere come voi. Se Dio non ci amasse, se ci disprezzasse, se volesse stare lontano da noi perché siamo cattivi, non si sarebbe mai fatto uomo. Invece si fa uomo proprio per dirci: guardate che io non mi sono pentito di avervi creato e di avervi creato così. E anche se la storia della salvezza dice che all'inizio c'è stato il peccato che ha rovinato un po' la mia creazione, io vengo e la sistemo, ma mi andate bene così. E vi amo così tanto che voglio avere un rapporto con voi da pari a pari. Voglio anche essere uguale a voi in tutto e fare anche tutta l'esperienza. Oggi ci dice, ho vissuto 9 mesi nel grembo di mia madre, ho voluto fare come Dio questa esperienza di qualcosa che ho creato. E ho voluto assaporare l'amore di mia madre per me. E poi ho voluto oggi uscire alla luce e lasciarmi guardare, toccare, prendere in braccio, accudire, pulire, nutrire, custodire. Forse tu, Gesù, oggi ci dici che tu che sei amore, che l'amore è anche questo, è anche farsi incontro e andare a trovare e lasciarsi amare. Lasciarsi amare. Poi l'amore nella grotta di Betlemme lo vediamo in Gesù bambino che è Dio amore fatto carne. Io quando lo prendo in braccio, quando lo contemplo e lo adoro, sto adorando l'amore di Dio fatto carne. per amore nostro, e poi vedo questo amore anche ovviamente in tua madre, in San Giuseppe. Questa, vedo in Maria una dedizione semplice e totale, una grande forza, è disposta a tutto per portare avanti te, che sei il fine della sua vita. Per amore di quel bambino affronta qualunque cosa. E poi aiuta Giuseppe perché lo comprende nella sua preoccupazione e allo stesso tempo si lascia aiutare da Giuseppe, che l'ama tanto. Giuseppe aiuta Maria, Maria aiuta Giuseppe e tutte e due avvolgono Gesù. E quindi questo è il secondo punto, no? Dio è semplice, Dio è amore. E poi il padre dice, ecco, dice San Giovanni in una delle sue lettere: noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi, nella prima lettera, no, di San Giovanni. Da un cristiano si spera niente meno, niente di meno, che egli sia presenza di Cristo tra gli altri. E così tutti i cristiani. San José Maria diceva che dobbiamo essere ipse Christus, lo stesso Cristo, come egli stesso ci ha detto, che non è venuto a essere servito, ma a servire. Così possiamo esserlo con il servizio, e buona parte di questo servizio deve consistere nel dare a tutti la pace. Quindi possiamo dire che il Padre passa dall'amore di Dio che noi contempliamo, al servire. Amore è servire. E Gesù stesso ha detto: io sono venuto per servire, no? Si è fatto nostro servo, è venuto a lavarci i piedi, no? Come fa con i discepoli. E lì, quando tu Gesù sei bambino, evidentemente Maria e Giuseppe ti servono, e i pastori ti servono, e tutti quelli che possono ti servono. Però poi dopo diventi tu, pur essendo Dio, il nostro servitore per amore. E questo è un altro punto della meditazione. Guardando il presepe, Dio è semplicità, Dio è amore, Dio è amore che si fa servizio, che si fa servizio, no? E com'è bello Gesù aiutare gli altri, no? Poter anche proprio essere utili per gli altri, poterci donare agli altri e che loro possano, insomma, contare su di noi, che possano chiederci aiuto, no? Che possano con semplicità chiederci aiuto, no? Che possano, e che noi possiamo aiutarli davvero, in piccole cose o in grandi cose. E poi il padre dice: però, quest'altro punto, buona parte di questo servizio deve consistere nel dare a tutti la pace, servire dando la pace. Continua così: in questo mondo così scosso dai conflitti, da tante divisioni nelle stesse famiglie, il primo servizio non può essere che dare pace, essere persone che danno la pace. Che poi è una delle beatitudini. Allora, qui ci fermiamo un altro po'. Certo, guardando il mistero della nascita di Gesù e anche celebrandolo nella messa, che è quando questo fatto misticamente di nuovo avviene, e noi riascoltiamo le parole degli angeli ai pastori, no? Non temete, oggi vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. È come da parte degli angeli, no? E ascoltiamo questi angeli, no? Io in questo momento, mentre vi parlo, mi ricordo del campo dei pastori a Betlemme. Noi abbiamo celebrato la messa, cioè ho celebrato la messa con il pellegrinaggio con le persone che venivano con me in una grotta che è considerata una delle grotte dove stavano i pastori, a una certa distanza dalla quella che si considera il luogo dove c'era invece la grotta dove è nato Gesù. E quindi questi campi, bene, allora i pastori stanno in questi campi, vedono questa luce e ascoltano questo invito, che è allo stesso tempo una meraviglia degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che gli ama. Allo stesso tempo è un desiderio, è un fine, è una preghiera. Gesù è venuto per dare a noi la pace. Infatti, nella lettera, nella, scusate, nel, dal libro del profeta Isaia, Isaia si sentono sette nomi di Gesù e uno è principe della pace. Principe della pace. Noi ci ricordiamo che un antico consiglio di direzione spirituale, mi sembra che possa risalire proprio anche a San José Maria come maestro anche di vita spirituale, che diceva: ciò che toglie la pace non viene da Dio, anche se qualche volta il Signore può permettere un'inquietudine, ma perché ci vuole portare a fare un'operazione di pace? Un'inquietudine che ci toglie dalla nostra comodità, che ci fa capire che c'è qualcuno che ha bisogno di noi, però per sé ciò che toglie la pace non viene da Dio, invece Dio è principe della pace, padre della pace, no? Quindi noi come figli di Dio siamo chiamati a essere operatori di pace, coloro che proprio creano la pace, che fanno la pace, no? Che portano la pace. Pensiamo così alle nostre azioni, no? Al nostro modo di porgerci, alle nostre parole, anche al nostro lavoro, al nostro amore in famiglia, al nostro amore che è servizio e che però servizio che diventa costruzione di pace. Beati gli operatori di pace, quelli che danno la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Servire dando la pace con comprensione e poi pregando per la pace del mondo che ne ha tanto bisogno. Ecco, quindi questa è un'altra linea di preghiera quando noi ci avviciniamo al presepe, quando in questo tempo di Natale staremo a contemplare il principe della pace che è quel bambino. Allora, Maca rioi oi irano poioi, se vi può aiutare, no? Ricordarlo in greco. Quindi, però, irano poioi vuol dire coloro che proprio poioi è uno che costruisce, no? Il muratore che mette i mattoni, cioè che costruisce la pace, no? Beati costruttori di pace. E chiediamo questo dono al Signore, chiediamo questa grazia, chiediamo di essere aiutati appunto anche a essere ispirati, come si fa, no? Come si fa? E poi pregare per la pace del mondo. Poi un altro punto, no, che il Padre tocca, mi piacerebbe ricordare anche che il prossimo anno, il 2018, avrà luogo un sinodo speciale, pregare per quello che il Papa ha in mente. Avendo convocato questo sinodo, in realtà nelle sue linee generali sappiamo che si tratta di diffondere la consapevolezza della vocazione cristiana e soprattutto di vocazioni a una donazione a Dio nei diversi modi possibili in questo mondo. Si tratta di scoprire che cosa Dio vuole da ciascuno di noi, ma senza considerarla solo una questione di pensare, di scoprire, ma anche di volere e desiderare di scoprire la propria vocazione per seguirla. Se pregheremo molto per le intenzioni del Papa, staremo preparando questo sinodo e anche se pregheremo perché vi sia una consapevolezza sempre maggiore che tutti noi abbiamo una vocazione alla santità, che tutti noi abbiamo, dobbiamo scoprire ciò che Dio vuole da noi. Questo è un po' il compito che anche la Chiesa, il Signore e la Chiesa dà all'Opus Dei, cioè diffondere questa consapevolezza che tutti siamo chiamati alla santità e che ciascuno di noi ha una vocazione speciale. C'è nella Bibbia questa realtà, c'è nel, dell'insegnamento della Chiesa, ma noi abbiamo questo compito pastorale di diffondere questa consapevolezza. Tutto ciò che Dio ci chiede è un dono che Egli ci fa. Pertanto preghiamo anche per questo, perché i giovani, specialmente quando sentono la chiamata di Dio, ma pensano che costi troppo, perché ritengono che sia dare molto, pensino anche che ricevono molto di più, che tutto ciò che si possono dare è un dono di Dio. Questo lo vediamo anche con il Papa, come si dona continuamente, lo stesso dobbiamo fare noi. E in effetti poi fa conclude questo messaggio proprio con questo annuncio degli angeli, no? Allora, questo annuncio degli angeli a Betlemme, che oggi rileggiamo durante la messa, ci aiuta a ricordare che lì, in questo presepe, in questa mangiatoia, in questa grotta, con la compagnia degli animali, c'è tutta una storia di vocazioni, no? Perché Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo e Giuseppe ha ricevuto l'annuncio dell'angelo in sogno. E Gesù, secondo la lettera agli ebrei, quando viene concepito, dice: eccomi, io vengo a fare la tua volontà, no? Quando viene nel mondo. Quindi è una famiglia di chiamati, ma questo chiamati siamo veramente tutti, noi esseri umani che veniamo al mondo, chiamati da Dio alla vita e all'unione con Lui e all'amore, quindi all'amore, chiamati a essere protagonisti e testimoni dell'amore. E quindi questo è un altro tema bellissimo di preghiera davanti al presepe, che il Padre ci suggerisce nel messaggio che ha fatto conoscere oggi, no? E guardando il presepe, contemplando il Natale, pensiamo al desiderio del Papa di diffondere questo amore per la vocazione, no? Per tutte le vocazioni. E in mezzo al mondo della Chiesa, perché tante persone si dedichino a seguire il Signore, a cercare quello che vuole da loro e a seguirlo con forza e con gioia, no? Vi annuncio una grande gioia. Vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore, dicono gli angeli, una gioia che sarà di tutto il popolo. Quindi capite, Maria, poi Giuseppe, Gesù è chiamato, cioè il Figlio di Dio che è chiamato alla vita, è chiamato a entrare nel mondo per portarci come Salvatore la salvezza, e poi però tutto il popolo che si sente chiamato a far parte della Chiesa e a svolgere nella Chiesa il compito che il Signore dà a ciascuno. Vorrei fare gli auguri a tutte e a tutti coloro che mi ascolteranno e rivivere e riascoltare l'annuncio dell'angelo ai pastori di Betlemme. Vi annuncio una grande gioia: vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è il Cristo Signore. E fare in modo che questo sia realmente la radice, il motore della gioia di queste feste. È logico che siano feste piene di gioia, ma deve trattarsi di una gioia fondata su questo meraviglioso annuncio: ci è nato il Salvatore. Il Salvatore è nato per noi. Quindi noi nella nostra preghiera andremo a contemplare nella grotta di Betlemme il mistero della vocazione che viene da Dio e di queste persone che seguono con pienezza la vocazione, che poi è di tutto il popolo e che è fondata sulla gioia e che porta alla gioia. Noi tutto questo ovviamente non è una cosa automatica, anzi lo sappiamo bene che può essere anche difficile, però il Padre, come cerca di fare sempre, è un leitmotiv di tutto il magistero dei papi di questo secolo, no? Cioè, il secolo è breve, ma anche quello precedente, insomma, io, quelli che ho conosciuto io, insomma, che spesso ci dicono: guardate che insomma, il Papa Francesco, no? Dio che viene prima, no? Che primerea, no? Che viene prima l'aiuto di Dio, viene prima l'amore di Dio, viene prima la sua chiamata, no? E poi noi seguiamo. E Benedetto XVI lo stesso ci insisteva, Giovanni Paolo II, eccetera. Il Padre fa eco, no? Tutto ciò che Dio ci chiede è un dono che Egli ci fa. Cioè non dipende da noi, dipende prima da Dio che ci dona tutto questo. Allora, noi pieni di speranza, pieni di gioia per il Natale, andiamo da Gesù Bambino a a baciarlo, a prenderlo in braccio, a collarlo, a cantargli le canzoni di Natale, per dirgli: io desidero tutto questo, me lo regali? Io desidero che tu mi regali tutto quello che io ti voglio regalare, e ci credo. E Maria ci guarda, ci sorride, ci facendo di sì che è proprio così, e San Giuseppe pure con la sua fortezza e con questa speranza, con questa certezza, con questa gioia, sentendoci molto figli e quindi molto fratelli tra di noi, promettendoci di volerci molto bene, noi andiamo a celebrare nella messa il Natale.